Siamo qui di nuovo dall'area occupata delle ex officine delle Ferrovie della Calabria per parlare, dico a Cosenza, per parlare di quella che è l'undicesima edizione di Fiera in Mensa. Abbiamo qui con noi un caro amico, c'è Ethan di Calafrica, questa associazione che da anni sta operando sul territorio. E io volevo fare, abbiamo già sentito Carlos 2 giorni fa che ci ha detto un sacco di belle cose che ci hanno veramente entusiasmato, cioè ci parlava fondamentalmente di come sia possibile attraverso questi momenti di incontro elaborare fondamentalmente un nuovo progetto politico, anche no? Un nuovo progetto e una nuova visione delle cose per superare questa crisi che prima ha investito l'Africa e ora investe pesantemente anche l'Europa. Esatto. Ora, oggi Calafrica che cosa ha fatto? Io so che è successo qualcosa nelle officine Babilonia, la mostra intendo. Oggi siamo alla serata Calafrica, che abbiamo un concerto da presentare, un DJ e poi la mostra fotografica e figure politiche della rivoluzione, della democrazia che è stato negli ultimi 30 anni, 40 anni diciamo in Africa. Quindi è questo, Calafrica. Mi dispiace che i ragazzi calabresi o consensini pigliano Calafrica come un'associazione degli africani. Il nome Cala, Africa, Calabria e Africa per me era un mixio, un spazio dove i ragazzi di varie culture, di varie regioni, europeane, italiane, soprattutto calabrese, i ragazzi africani che vivono qua, che stanno cercando di integrarsi qua, possono convergere insieme facendo delle attività culturali, sportive, spirituali, pure sociali, nel quale ognuno si ritrova. Questa era l'idea. Poi, piano piano, è stato preso un po' come un'associazione di africani che fanno solo da ballare, mi dispiace un po', per questo che il mio successore, Carlos, che ho nominato 3-4 settimane fa, ho detto, senti, questa è la carica che avevo da fare il mio ultimo mandato, no? Te lo lascio, fare questa attività-là che forse tu riuscirai. Ho seminato, uno deve prendere cura della pianta e vediamo chi raccoglierà i frutti. Quindi a volte molti ragazzi, soprattutto, non so, italiani, pensano che all'africano generico, come quel ragazzo di colore, magari alto, ecco, che arriva con i bonghi e suona. E forse anche per questo che in realtà quello che si cerca di fare è spingere, cioè per l'aspetto culturale di Fiera in Mensa, molte volte viene sottovalutato anche dagli stessi organizzatori, da alcuni almeno, che pensano che le attività culturali magari siano una cosa marginale. E invece magari è proprio il contrario, magari è proprio tramite la cultura che possiamo avere questi incontri. Quando questa sera parlavate con i ragazzi, non so se tu c'eri perché ero qui che cercavo di montare la radio, comunque tu sei riuscito a cogliere magari qualche interesse particolare rispetto a tanti personaggi storici molto importanti che noi non conosciamo, cioè questi ragazzi erano interessati? Sì, qualche fatto interessante, che sia nei contatti fra le persone, poi nell'ambiente dove viviamo, essere utile. Io penso che i contatti fra le persone nello spazio che viviamo, uno deve essere utile alle cose che ti sono utili pure. Significa che se ho un amico, c'è un motivo che un amico mio, se ho un lavoro, c'è un motivo che questo lavoro là, perché so fare le cose che un capo mi chiede. Anche la stessa cosa, un amico, se essere la persona che al momento va bene, come lui per me. Quindi nel contatto con le persone mi sa che c'è delle cose interessanti che possiamo fare. Ci sono delle cose interessanti veramente che possiamo fare. Ok, ora un'ultima domanda, proprio perché siamo alla radio e vogliamo divulgare anche attraverso questo strumento che è Radio Transizione di Fase un po' di cultura africana, un po' di cultura mondiale, perché dobbiamo dire che è solo africana. Io leggo qui Thomas Sankara, il visionario. Ci puoi dire brevemente chi era Thomas Sankara? Ok, Thomas Sankara faceva parte dei quattro rivoluzionari. Se non mi sbaglio c'era Blaise Compaoré, Thomas Sankara, il Lion di Panchir o un altro che il nome non mi viene in mente. Erano quattro persone che hanno fatto la rivoluzione, che hanno cacciato Maurice Ouédraogo della presidenza di Burkina Faso. E poi i quattro amici della rivoluzione, uno, bon, non so, Thomas Sankara è stato uscito di un colpo di Stato in Burkina Faso. Se non mi sbaglio, in 1986, verso di là, un po', aspetta, e poi perché era un giovane presidente sergente dell'armata burkinabè, che una volta si chiamava la Haute Volta, Alta Volta, che è un fiume, la Volta è un fiume, no? E quindi, bon, da lì, dopo 2 anni di esercizio, il suo caro amico, dicono l'attuale presidente l'avevo fatto uscire da un colpo di Stato, poi da lì e là. Quindi Thomas Sankara, diciamo, è uno che ha voluto promuovere la consumazione, diciamo, la consumazione degli africani di patrimonio africano. Perché noi produciamo petrolio, diamante, olio, tenti conto là. Vediamo che siamo fra noi bene prima. Poi il resto lo vendiamo, non che vendiamo tutto. Per esempio Costa d'Avorio fa 3.000 barili di petrolio al giorno, 2.000 sono mandati fuori e 1.000 per la consumazione ivoriana al giorno. E ci sono dei momenti che c'è la fila per la benzina. Tu immagini, quindi Thomas Sankara, la sua idea era se produciamo 3.000 barili, se produciamo miliardi di diamanti d'oro, di cacao, di cocco, di ananas, vediamo che la popolazione che vive in Africa mangia la sua fame a meno costo, tutto conto, il resto le vendiamo. E poi i progetti di urbanismo, di sviluppo, i suoi amici penso che non hanno voluto questo, hanno voluto dei Mercedes, dei palazzi, le cose. Era uno dei presidenti che si vestiva con i vestiti originali africani, che camminava. Era un modello, i modelli come sono, non vivono lontano. E i modelli molte volte non vanno lontano, c'è anche chi vorrebbe fare il modello e non ne ha le capacità, è vero? Esatto, è vero, questo è vero. Ok, guarda, se vuoi aggiungere altro, il nostro microfono è privo di qualsiasi censura, puoi dire quello che vuoi, altrimenti... Niente, la cosa che voglio dire è che la provincia di Cosenza, la città di Cosenza, la regione è una regione veramente tranquilla, calma, ci vuole un po' di serietà nelle imprese, nelle piccole e medie imprese, no? Un po' di serietà, un po' di investimento, un po' di credenza al sud dell'Italia, aprire un po' la tecnologia meccanica, aerospaziale, un po' sul territorio calabrese, pure a rinnovare come porto, come un aeroporto internazionale, come Roma, non la Mezza, là che è un piccolino aeroporto, ma pure un porto, aprire Calabria, perché il tempo a Calabria qua veramente è meraviglioso. Io sono stupefatto di vedere che in dicembre possiamo avere 12-13 gradi là, frattempo negli altri vicino, dopo 1000-1500 chilometri sono meno 30, meno 20, meno 15. Veramente qua è un paradiso, le devo sfruttare. Ma anche noi abbiamo vari problemi. Il tempo è bello, però anche noi vorremmo un Thomas Sankara e non c'è. Magari Ethan può diventare il nostro Thomas Sankara. Oh, come dicono in Africa, un pezzo di legno che cade nel fiume non diviene mai un pesce. Senza notare, ma... E questo ci vuole un calabrese proprio o un italiano per fare le cose. Poi noi i migranti integrati daremo un mano sicuramente, sì. No, ti vogliamo un nuovo Thomas Sankara calabrese. Thomas Sankara calabrese. Esatto, ok. Allora Ethan, noi ti ringraziamo. E ci stanno ascoltando tante persone, te lo assicuro. Ok, io direi di mandare un altro po' di musica e salutiamo Calafrica, salutiamo il nuovo Thomas Sankara. Che sarebbe Carlos. È Carlos, il nuovo Thomas Sankara.